Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Il 349-238-6666 è il numero per contattarci via SMS in diretta come sempre. Vi trasmettiamo, è un po' il rumore di sottofondo, lo testimonia da un luogo pubblico per così dire, è il Salone del Risparmio che si svolge a Milano, all'Università Bocconi, e sarà proprio il risparmio all'apertura del nostro programma, su questo ci concentreremo. C'è un'indagine realizzata da Prometeia che verrà presentata domani e che siamo in parte in grado di anticipare, che ci dà qualche segnale sul fatto che gli italiani stanno ricominciando a risparmiare. Ora, io so già che arriveranno via SMS gli ascoltatori che diranno: ah, ma voi non vi rendete conto, la situazione è ancora terribile, è tutto devastato. Sappiamo benissimo che la situazione è difficile, sappiamo anche che qualche segnale si registra. Con questo non vuol dire che siamo usciti completamente dalla crisi, vuol dire semplicemente che qualche segnale si registra, e come tale lo registriamo, così come nei 5 anni passati abbiamo registrato il dramma, lo possiamo dire, che abbiamo attraversato. Di questo parleremo, della ricerca di Prometeia, così come quella del Sole 24 Ore che è oggi in edicola, un servizio di Moria Longo che è molto interessante perché ci segnala che dello stock di risparmio degli italiani, dello stock di risparmio, solamente un 10% fluisce verso le imprese, e questo è un altro elemento centrale, ossia i canali di finanziamento delle nostre aziende. A proposito di canali di finanziamento delle nostre aziende e di finanziamento dell'economia, oggi è stata una giornata importante in Parlamento, alla Camera dei Deputati, dove il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, è intervenuto e dove ha risposto anche alle domande dei parlamentari italiani. Sono stati tanti gli argomenti toccati, su tutti ovviamente il quantitative easing, ossia il varo di questo piano di acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, che dovrebbe servire, nelle intenzioni della BCE, a contenere la deflazione e, diciamo noi, anche se nel mandato della BCE non è scritto, anche a rilanciare l'economia, ossia far girare più liquidità, far affluire denaro fresco appunto alle imprese e alle famiglie. Anche di questo tra l'altro ha parlato Draghi rispondendo a domande di alcuni deputati, cioè sul tema se la BCE possa verificare se questo denaro poi effettivamente fluisce verso le imprese e le famiglie. Più che altro la testimonianza ce la darà l'economia reale. È una giornata negativa quella di oggi per le borse. Milano in questo momento cede l'1,38%, vi dico che già va meglio perché è arrivata a perdere il 2% con anche le altre piazze finanziarie europee negative, seppure meno. Francoforte in calo di 0,5%, Parigi dello 0,6%. Tutto questo sulla scorta di cosa? Sulla scorta dell'andamento del prezzo del greggio. Il prezzo del petrolio oggi è andato su di parecchio, soprattutto nella prima fase della giornata. Per quale motivo? Quello che pesa, e di questo anche parleremo, sarà uno dei nostri argomenti di approfondimento, sulla base di quello che sta succedendo nello Yemen. Sono notizie che avete sentito nei nostri giornali radio, ma che hanno naturalmente anche un impatto economico, un impatto sul prezzo del petrolio. Che cosa è successo nello Yemen? È successo che i ribelli sciiti, sostanzialmente sostenuti dall'Iran, stanno avanzando. L'Arabia Saudita ha deciso di reagire con una serie di raid ai quali stanno partecipando anche il Sudan e la Giordania. E perché questo crea un impatto sul prezzo del petrolio? Perché da quella zona, dal Golfo di Aden, passa il 40% del petrolio mondiale, come in termini di trasporto, molto semplicemente. E questo ovviamente ha un impatto sul prezzo del greggio. Il rischio, tra le altre cose, è che in una zona non più in sicurezza e non più tenuta in sicurezza nemmeno dagli americani, possano ricominciare ad agire, tra l'altro, i pirati che in quella zona hanno agito spesso. Questi in linea di massima i temi che toccheremo oggi, oltre ovviamente a quello dei mercati. Iniziamo però, come sempre, dalle notizie in breve. Ho capito, c'è un ascoltatore che ha mandato 20 messaggi tutti uguali dicendo vogliamo Barisoni, non vi preoccupate che torna, oggi ci sono io, il titolare della trasmissione è lui, non c'è problema. E no, non trasmettiamo da casa Renzi, registriamo qualche piccolo segnale di risveglio dell'economia, per carità. Le materie prime, innanzitutto, come sempre, iniziando proprio dal prezzo del greggio del quale vi parlavo, il Brent, quello quotato a Londra, quello del Mare del Nord, guadagna con quello con consegna a maggio un 3,86% a $58,6 al barile. Il WTI, quello quotato a New York, con consegna a maggio guadagna il 3% sopra i $50 a $50,7 in questo momento. Oro in risalita dell'1% a $1,206 l'oncia. A proposito di petrolio, c'è da segnalare questa notizia. Uno dei paesi che ha subito in maniera più violenta la decisione dell'Arabia Saudita, l'imposizione all'OPEC da parte dell'Arabia Saudita, la faccio molto semplice, di tenere i prezzi bassi, è il Venezuela. Ebbene, il Venezuela si è saputo oggi, secondo un rapporto della Barclays, reso noto al quotidiano Il Nuevo Herald di Miami, il Venezuela ha ridotto a metà l'invio di petrolio a prezzo ridotto che era garantito a Cuba e ad altri 16 paesi membri di Petrocaribe, che è un'organizzazione regionale creata nel 2005 proprio per garantire un petrolio a prezzi ridotti. Altre notizie dall'Europa. Dunque, in Germania la fiducia dei consumatori è salita ai massimi da 13 anni. L'indice GfK è a 10 punti ad aprile dai 9,7 di marzo. Ha rivisto così il livello più alto da ottobre del 2001. In Grecia continua a scendere il livello dei depositi nelle banche, è calato di circa il 5% a febbraio, a 140 miliardi e mezzo di euro, avvicinandosi ai minimi di 10 anni fa. Nel giro di 3 mesi, più o meno il tempo delle elezioni, diciamo, i depositi hanno segnato un calo del 14,5%. Brevemente Draghi e poi ci ritorneremo. Parla il presidente della BCE di prospettive di crescita più favorevoli. Dice che la BCE può aiutare a riavvicinare la crescita a livello potenziale, ma questo può essere alzato solo attraverso riforme strutturali. E a proposito dell'euro, insomma, dell'addio all'euro, dice Draghi, in vari paesi dell'eurozona la crescita potenziale si è smorzata già prima dell'introduzione dell'euro, dice, e fa riferimento in particolare all'Italia, e aggiunge, chi pensa all'addio all'euro si ricordi lo spread a 500, sentiamolo. Non molto tempo fa, alla fine del 2011 e nel 2012, fronteggiavamo, e lo ricorderete senz'altro, un contesto molto meno favorevole di quello attuale. Le banche avevano appena avviato il necessario processo di riduzione dei debiti dopo la crisi finanziaria. Vivevamo una crisi di fiducia verso i debiti sovrani, la quale a sua volta dava luogo a una forte frammentazione dei sistemi finanziari dell'area lungo i confini nazionali. A ciò si aggiungevano i timori ingiustificati sulla reversibilità dell'euro, che sospingevano ulteriormente verso l'alto i premi a rischio nazionali. In Italia il rendimento del BTP decennale eccedeva il 7% alla fine del 2011, a fronte del 2% corrisposto sullo stesso titolo in Germania. Per inciso, questo spread di 5 punti, cioè 500 punti base, è esattamente lo spread che gli italiani, che noi abbiamo pagato per 15 anni in media prima di entrare nell'euro. Quindi chi vuol far paragoni tra le due situazioni ora ha un primo parametro di paragone. Siamo al primo tema di questa giornata, poi su Draghi ci torneremo, vi faremo sentire qualche altra voce del Presidente della Banca Centrale Europea in questo suo intervento al Parlamento italiano. Tra l'altro era parecchio che non lo sentivamo parlare in italiano Draghi, ci siamo abituati a sentirlo in inglese da Presidente della Banca Centrale Europea. Primo tema di giornata, dunque il risparmio, perché vi trasmettiamo, come si diceva dal rumore di sottofondo che sentite, dal Salone del Risparmio di Milano, iniziato ieri, proseguirà domani al Centro Congressi dell'Università Bocconi, è la sesta edizione di questo salone. L'edizione 2015 ha il titolo Il Nuovo Risparmio, strumenti per comprenderlo, soluzioni per gestirlo. È in studio con noi Chiara Fornasari, che è partner di Prometeia. Prometeia che domani presenta il suo osservatorio sui risparmi delle famiglie. Buonasera Fornasari, benvenuta. Ed è in linea con noi anche Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, buonasera. Buonasera a tutti. Tra poco con te parleremo del tuo servizio che apre l'edizione di oggi del Sole 24 Ore e che ci presenta questo dato interessante che ci dice che meno del 10% del risparmio finisce a sostegno delle imprese. E questo è sicuramente un capitolo che adesso tratteremo anche con Fornasari, però vorrei partire da quelli che sono i dati generali. Anticipiamo qualcosa, non tutto naturalmente, del rapporto che voi presenterete domani. Già gli ascoltatori si sono scatenati perché noi abbiamo accennato al fatto che qualche segnale di ripresa, quantomeno del risparmio, si intravede, ci dica in che termini. Bene, allora provo a spiegare partendo da quello che è successo nel 2014, che è un anno su cui abbiamo già molte informazioni da poter analizzare. Intanto vorrei ricordare che è il primo anno dal 2008 che il reddito disponibile delle famiglie cresce, perché è diminuito dal 2008 al 2013 continuamente di anno in anno. E vorrei ricordare che il reddito disponibile delle famiglie se lo depuriamo dalla variazione dei prezzi, la proxy più limpida e più pulita del potere di acquisto delle famiglie. Il potere di acquisto delle famiglie è sceso dal 2000. Per la prima volta nel 2014 ha avuto un piccolissimo aumento dell'1,3%, ed è un fenomeno molto interessante questo, perché intanto proviene dal fatto che i dati di disoccupazione non sono migliorati ma hanno smesso di peggiorare, che sono molto importanti da questo punto di vista, e poi proviene dal fatto che hanno rallentato un po' anche le riduzioni dei redditi che si sono avuti. La fiscalità sul reddito, perché poi no, dobbiamo leggerla anche in termini di capitali, cioè sul reddito è ferma, e quindi questo è il primo punto da segnalare. All'interno di questo scenario che cosa è successo? Che le famiglie hanno rispetto all'anno precedente, in cui già un piccolo segnale in questo senso c'era, hanno ridotto la quota di reddito consumata per aumentare la quota di reddito risparmiata. In questo senso si dice cresce la propensione al risparmio. E quindi per certi versi, così poi mettiamo d'accordo un po' tutti gli ascoltatori, quelli che vogliono vedere i segnali positivi e quelli che vogliono vedere i segnali negativi. Sì. E quindi in un certo senso questi 5 anni di recessione hanno messo una grande paura, per cui in questo momento piuttosto che spendere del denaro si preferisce metterlo da parte, quando lo si ha naturalmente, perché poi abbiamo ascoltatori che ci scrivono: ma quale risparmio? Io non l'ho mai visto. È naturale, all'interno di un quadro generale ci sono il famoso pollo di Trilussa, no? Tre polli sarebbero uno e mezzo ciascuno, però in realtà magari ce n'è uno che se ne mangia tre e uno che non se ne mangia nessuno. Però all'interno del quadro generale ci sono delle famiglie che sono riuscite a risparmiare, hanno preferito risparmiare piuttosto che consumare. Anche perché non dimentichiamo che c'è un altro fattore da tenere presente in questo ribilanciamento che continuerà ancora per alcuni anni tra risparmi e consumi. Due grandezze molto importanti nel determinare i comportamenti delle famiglie, che è la loro ricchezza. La ricchezza ti fa sentire un po' più ricco e puoi quindi consumare di più, oppure se la ricchezza cede ti senti un po' meno ricco e tendi a ricostruirla. Beh, noi ci troviamo che la ricchezza finanziaria delle famiglie netta sta adesso, se la misuriamo in termini reali, raggiungendo solo adesso i termini pre-crisi, mentre è estremamente molto inferiore alla fase pre-crisi la ricchezza abitativa. Allora, siccome la diffusione del possesso di abitazioni è molto larga, questo è un fenomeno che pesa sulla classe anche media, non soltanto alta, quindi ha meno a che fare con la ricchezza finanziaria, se vogliamo, e quindi crea un problema di sentirsi un po' più poveri, motivo per cui tendi a continuare a comprimere un po' la tua abitudine di consumo, resti molto parco. Quindi che cosa vuol dire? Che avremmo un po' più di risparmio in termini di flussi, ma l'economia cresce un po' meno. Chiarissimo. Allora, io voglio anche rispondere a un po' di ascoltatori che continuano a dire smettetela, non è vero, qua nessuno riesce a risparmiare, con 800 euro al mese che cosa riesce a risparmiare? Guardate, siamo perfettamente d'accordo su questo punto. E ripeto, si parla di un'indagine generale e ancora una volta, anche con uno stipendio basso, non dico di 800 euro, ma con uno stipendio basso, magari, non lo so, nel corso del 2014 uno ha deciso di smettere di fumare apposta per risparmiare soldi. Quindi ha, contratto il consumo di sigarette, faccio un esempio, no? Per tenere da parte qualche quattrino in più. E si intende esattamente questo. Ci sono dimensioni più ampie per famiglie che hanno reddito disponibile più ampio e ovviamente dimensioni più piccole per chi ha un reddito disponibile più piccolo, no? È chiaro che noi stiamo parlando di un dato aggregato. Ci sono già molti studi che ci dicono che se andiamo a leggere come è la distribuzione del reddito, del risparmio, dei consumi, questo fenomeno segnalato dagli ascoltatori si vede molto bene. Per chi non ha lavoro è fuori dal mercato del lavoro, è fuori dal mercato del risparmio, no? E quelli certamente i problemi ce li hanno, e quelli sono aumentati, non è che sono diminuiti, no? Quindi noi stiamo parlando di chi è ancora dentro il mercato del lavoro, di chi presumibilmente potrà progressivamente rientrare, seppure molto lentamente, e delle fasce che sono state toccate meno. Detto questo, vorrei anche dire che ci sono interi comparti dei consumi, dai servizi dentistici, servizi professionali, gli avvocati, i commercialisti, hanno visto ridursi tantissimo la loro redditività in questi anni, perché quella, per esempio, è anche un'altra delle forme a cui si rinuncia per poter risparmiare di più. Insomma, è molto complessa questa storia. Se va letta in termini di distribuzione, è chiaro che si vede quello che gli ascoltatori dicono. Sì, un altro ascoltatore mi fa notare che ho esagerato con i polli di Trilussa, effettivamente erano due e non tre. Allora, Moria Longo del Sole 24 Ore, prima di venire ai dati che pubblichi oggi, vorrei una tua opinione, una tua valutazione. C'è questo luogo comune che è durato fino a prima della crisi, che dice che gli italiani sono un popolo di risparmiatori. L'impressione, da quel che abbiamo visto, dalla recessione, dalla compressione dei redditi, soprattutto delle generazioni più giovani, ma anche di chi ha perso il lavoro in questi anni di crisi, l'impressione è che quest'epoca sia definitivamente conclusa. Allora, gli italiani erano un popolo di risparmiatori, soprattutto quando i titoli di Stato rendevano talmente tanto che ci voleva poca conoscenza finanziaria e poca spericolatezza per risparmiare e avere un buon ritorno. Negli ultimi anni, precedenti alla crisi, nell'ultimo decennio, il tasso di risparmio, adesso non ho i numeri, ma è calato moltissimo, è continuato a calare durante la crisi. Nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, anno e mezzo, due anni, c'è stato un ritorno, appunto, come dicevate adesso, un aumento del tasso di risparmio. Io l'ho chiamato più volte sul giornale risparmio da paura, no? È proprio il fatto che la gente preferisce chi ce l'ha, chi i soldi ce li ha, come dicevate giustamente, tira la cinghia, consuma meno e risparmia di più. E questo è un tipico atteggiamento di un'economia in recessione e in deflazione. Quindi è un fenomeno che è anche comprensibile, umanamente comprensibile. E detto questo, tornando anche a quello che dicevano ai messaggi che stai ricevendo dagli ascoltatori, il fenomeno anche questo è abbastanza normale, abbastanza comprensibile. Durante le crisi così lunghe, l'Italia ha avuto una recessione pesantissima, durissima, le crisi tendono ad aumentare la forbice della ricchezza, cioè c'è una divisione tra ricchi e poveri, i ricchi tendenzialmente diventano sempre più ricchi e questo non è un fenomeno italiano ma un fenomeno globale, i poveri tendono a diventare sempre più poveri, quindi c'è una polarizzazione, quindi se si fa la media della ricchezza non c'è un calo così drastico come molte persone percepiscono, proprio perché c'è una biforcazione, una forbice che si allarga ed è questo è purtroppo l'effetto in tutto il mondo della crisi finanziaria e delle manovre monetarie che hanno buttato molto denaro sui mercati finanziari, di questo denaro ovviamente se ne sono avvantaggiati quelli che soldi sui mercati finanziari sono ancora in grado di metterceli. Buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri SMS. Un ascoltatore, adesso verremo al tema che abbiamo annunciato prima, quello di quanto di questo risparmio che timidamente cresce, fluisce verso le imprese, con Chiara Fornasari, partner di Prometei, e con Moria Longo del Sole 24 Ore. Ma prima una domanda per la Fornasari, perché un ascoltatore ce lo chiede, dice ma perché, dice, gli unici che sono riusciti a risparmiare in questi 5 anni sono i tedeschi, e in effetti, Fornasari, anche dalle vostre indagini emerge che, manco a dirlo, sono proprio loro che hanno tenuto la stessa propensione al risparmio, no? Sì. L'hanno mantenuta nel medio periodo, è anche molto stabile e questo è estremamente un fattore molto importante, perché da un lato è collegato all'andamento dell'occupazione che ovviamente non ha avuto la debacle che abbiamo avuto noi. Lo stesso problema però interessa anche la Francia, nel senso che la Francia ha tenuto molto bene. Dall'altro lato le famiglie tedesche, seppure indebitate, no, non hanno avuto quelle problematiche di crisi del debito privato che hanno interessato invece la Spagna e la Gran Bretagna, no, che comunque adesso si stanno riprendendo ma dopo momenti di contrazione molto forte del loro risparmio prima e di crescita dopo. E l'altro dato è che la politica dei redditi tedesca è una politica di redditi più sostenuta e questo sostiene la crescita, sostiene il risparmio, i livelli medi della redditività loro, anche se hanno un'imposizione fiscale anche maggiore della nostra, però il livello di reddito è certamente molto diverso. Torniamo da Moria Longo, dunque, perché, come si dice, beh, l'apertura di oggi del Sole 24 Ore ed è un punto molto interessante e molto importante effettivamente, ed è quanto del risparmio italiano fluisce verso le imprese. Ebbene, solamente un 10%. Moria, ci sai dare innanzitutto qualche dettaglio in più? E in secondo luogo ti chiederei se c'è un'idea delle motivazioni. Sì, allora, innanzitutto quel 10% è un po' una media a rialzo, nel senso che in realtà è io ho messo molto meno del 10%, per cui sarà sicuramente meno. Io ho fatto un ragionamento molto, molto semplice, no? Si dice sempre che in Italia non ci sono soldi per fare investimenti, tant'è vero che gli investimenti in Italia sono calati, se non sbaglio, del 25% dall'inizio della crisi. Si dice che le banche non finanziano più le imprese, tant'è vero che in Italia il totale credito alle imprese è calato dal 2011 a oggi di 100 miliardi, quindi c'è una mancanza di liquidità di denaro nelle imprese, quindi nella parte produttiva del paese. Appunto, si dice sempre che non ci sono i soldi, in realtà i soldi ci sono altrove rispetto al canale bancario, o meglio ci sono anche in banca, ma ci sono anche altrove. Il problema è che questi soldi non affluiscono nel mondo imprenditoriale, e ho messo un po' di numeri. Per esempio, il risparmio delle famiglie, secondo l'ultima indagine di Banca d'Italia, poi vediamo i dati che ha Prometeia più aggiornati, le famiglie hanno 3.848 miliardi di risparmio finanziario, cioè messo nei mercati finanziari, perché se si mette anche il mercato immobiliare si arriva a 9.600 miliardi. Di questi soldi una parte sono nel risparmio gestito a 1.675 miliardi in Italia, i fondi pensione hanno 126 miliardi, le assicurazioni hanno 541 miliardi investiti sui mercati, quindi di soldi ce ne sono. Il problema è che questi soldi non sono investiti né in borsa o in minimissima parte in borsa, neanche nell'obbligazione aziendale, sono investiti quasi tutti o in titoli di Stato oppure all'estero, quindi i soldi dei risparmiatori italiani vanno di fatto a finanziare le economie straniere. Faccio qualche esempio: i fondi pensione, che ripeto hanno 126 miliardi, non sono tanti perché in Italia i fondi pensione non sono molto sviluppati. Detto questo, questi 126 miliardi sono investiti solo in Italia in obbligazioni e azioni di aziende per il 2,5%, quindi una nocciolina mettono i fondi pensioni nell'economia produttiva italiana. Tenete conto che la media dei paesi principali esteri è del 46%, cioè i fondi esteri pensione investono solo nella borsa nazionale il 46% del loro patrimonio, in Italia il 2,5%, quindi molto poco. Le assicurazioni pure, io ho fatto una stima, perché i dati qua non sono divisi tra Italia e estero, ma ho fatto una stima in base ai dati Banca d'Italia che non più del 6% del totale patrimonio delle assicurazioni viene investito appunto in attività produttive italiane, quindi in aziende o sia tramite azioni sia tramite obbligazioni. Morale della favola, noi abbiamo un grande risparmio che non solo è distribuito male tra la popolazione, come dicevamo prima che la forbice della disuguaglianza sociale è aumentata, ma anche investito male, perché è investito in maniera sterile, improduttiva, che non produce ricchezza per Moria, il paese, ma Moria, solo per Moria, chi l'ha investito. Moria, il perché, poi lo chiedo anche alla Fornasari, però il perché vorrei da te intanto in breve, in 20 secondi se riesci. Il perché sono almeno di due tipi: uno culturale, e è noto che in Italia le imprese non vogliono quotarsi in borsa perché non vogliono investitori che gli vengono dentro, non emettono obbligazioni, c'è un problema culturale. Secondo, abbiamo sempre avuto un grande debito pubblico, quindi tutti i soldi sono sempre andati lì, rendevano tanto i BTP e i BOT, quindi mettiamoli tutti lì. In secondo luogo c'è un problema normativo e fiscale. In Italia la rendita finanziaria, per esempio il titolo di Stato, è tassato al 12,5%, altre forme di investimento sono tassate molto di più. Le normative anche prudenziali delle banche e delle assicurazioni incentivano assolutamente l'investimento in titoli di Stato piuttosto che investimenti in attività produttive, in qualcosa che porti benessere e sviluppo per la collettività. E quindi tutto questo, poi le motivazioni sono tantissime, ma queste due macro motivazioni, quindi una normativa fiscale e l'altra culturale, ha fatto sì che il grande risparmio degli italiani in realtà non ha portato molto all'Italia. Fornasari. Tutto vero, però bisogna aggiungere una cosa forse un po' più un po' più forte, secondo me, del perché, no? Nel senso che è le caratteristiche fino ad oggi di come è fatta proprio l'intermediazione finanziaria italiana, questo bancocentrismo tale per cui fino alla crisi del credito gigantesca ha avuto come impatto nostro, come funzionava che le banche si finanziavano, il funding lo facevano direttamente sulle famiglie collocando titoli, se ricordate fino al 2008, no? E anche un po' dopo sono stati svuotati i portafogli delle famiglie da strumenti di risparmio gestito per collocare per molti anni titoli di medio termine bancari e con tutte le varie forme di deposito, quindi direttamente famiglie, banche, da famiglie a imprese, no? Quindi giocando sulla redditività ovviamente degli spread che si potevano ottenere sul mercato di volta in volta dati i tassi di interesse. Questa è stata la crescita delle nostre banche. banca, è scoppiato il modello. Il modello non è scoppiato in Italia, perché ovviamente la sappiamo la storia, non vorrei riraccontarla, ma l'Italia l'ha presa molto male questa cosa, perché questo tipo di banca commerciale, quando l'economia ti crolla nell'intensità così forte come è crollata la nostra, ti fa emergere solo sofferenze, e la cattiva qualità del credito ce la stiamo portando dietro. Ancora crescerà per quello che riguardano i nostri conti, ci sono ancora emersioni perché sono ritardate, ma ha sfiancato i bilanci delle nostre banche, ha portato a tutto quello che sapete dagli stress test in poi. Questo modello è terminato, perché le banche con Basilea 3, i requisiti di capitale e tutto ciò che appunto in casa loro stessi. L'impressione è che lei dica questo mondo è terminato e però ancora non è passato il messaggio. Però tutti quei problemi di numeri che sono stati evidenziati prima da Longo ci dicono che non siamo mica pronti per fare l'altro salto. Abbiamo tanti strumenti, la fiscalità è da mettere a posto, tanti strumenti, tante idee, e abbiamo tanti soldi, verissimo, tante risorse impegnate in portafogli giganteschi che non vanno a finanziare l'economia. Allora due cose devono succedere, però come devono succedere? Chi importa le imprese sui mercati? Italiane. Sì. Qualcuno se ne deve curare, non possiamo solo dire è un problema culturale, qualcuno deve andargli a fare pianificazione, qualcuno deve insegnare, da un lato. Dall'altro abbiamo degli operatori come le assicurazioni che devono capire chi sono, perché in Francia e in Germania, che sono due modelli diversi, le assicurazioni finanziano, in Francia le banche sono le assicurazioni che comprano i titoli delle banche, in Germania i portafogli assicurativi sono maggiormente concentrati in prodotti gestiti che finanziano direttamente il mercato. Noi abbiamo titoli pubblici ancora. La ringrazio, grazie anche per la sua analisi a Chiara Fornasari, che è partner di Prometeia, grazie a Maria Longo del Sole 24 Ore. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, in parte anche ragione Orazio, sul tema investimenti sui privati ci scrive, avete scordato i casi Parmalat, Cirio, ne potremmo citare molti altri, però non era quello il tema, era quanto, come dire, i grandi gestori di risparmio, per così dire, investono nelle aziende italiane. Comunque magari tra un attimo ci torniamo, subito dopo il giornale radio, perché poi di questo ha anche accennato Draghi nella sua relazione al Parlamento italiano. Siamo alla borsa, ci dice qualcuno, i mercati chiudono meglio del previsto, che cosa mi sono perso? Matteo ce lo dice, si è perso il fatto che Milano è arrivato a perdere il 2% e poi ha chiuso con un meno 1,06% sul FTSE MIB e un meno 0,98% sul FTSE All Share. Oggi ci accompagna in un primo commento sulle borse Filippo Diodovic, che è strategist di IG Market Italia. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. A cosa dobbiamo il calo, insomma, in parte lo sappiamo, no? Le tensioni sul prezzo del greggio dovute anche a quello che sta succedendo nello Yemen, poi ci torneremo. A cosa dobbiamo questa ripresa in finale di seduta, Diodovic? Sì, diciamo che il mercato era sceso molto, molti operatori forse aspettavano anche un pretesto per vendere, e diciamo quel pretesto è arrivato dall'aumento delle tensioni geopolitiche e del rialzo del prezzo del petrolio. Poi comunque il mercato, soprattutto dopo l'apertura di Wall Street, è tornato, diciamo, verso l'alto e abbiamo limitato molto le perdite. Insomma, il FTSE MIB ha perso un solo punto percentuale, e tenendo conto dei forti rialzi da inizio anno grazie al piano Draghi, al piano di quantitative easing di Draghi, è un ribasso assolutamente fisiologico. Sappiamo che i trend rialzisti non mostrano solamente rialzi, ma sono anche dei momenti di correzione. Questo è stato, diciamo, una seduta di correzione. Quindi mi sembra che lei dica, Diodovic, lo Yemen, tutto sommato, la tensione per quanto riguarda il prezzo del petrolio era un pretesto per vendere a fronte di tre mesi e mezzo di sostanziale rialzo complessivo. Sì, certo, il FTSE MIB è salito quasi di oltre 20 punti percentuali da inizio anno, quindi diciamo che un momento di una pausa di riflessione è normale. Ecco, la crisi dello Yemen può portare a sviluppi negativi, ma solamente se dovesse peggiorare nel caso, ecco, di una, di, diciamo, di un intervento possibile dell'Iran, che chiaramente sta armando da parecchi anni di ribelli sciiti sia dell'Iraq che dello Yemen. Ecco, se l'Iran dovesse intervenire, allora chiaramente la situazione potrebbe peggiorare e ci potrebbero essere importanti ripercussioni negative sui mercati, ma al momento, diciamo, è contenuto, sono contenuti questi timori. Tant'è vero che in giornata i titoli migliori erano quelli petroliferi, c'era Eni in guadagno, così come Saipem, Tenaris, restano tra i titoli migliori della giornata Eni in perfetto pareggio, Saipem più 0,10%, Tenaris in calo dello 0,45% a fronte di un mercato complessivamente negativo, però poi appunto le cose sono cambiate. Gli altri titoli, Telecom Italia guadagna 0,5%, la Popolare di Milano lo 0,37, Autogrill lo 0,33, Moncler lo 0,26, A2A altrettanto, Saipem che guadagna lo 0,10%, come si diceva. Il resto sono tutti titoli negativi, a partire da Setti Microelectronics giù del 3,7, Mediaset del 3,4, Jux del 3,4, Mediolanum di quasi il 3, Mediobanca del 2,6, Popolare Emilia Romagna del 2,2, Gtech del 2,21, Azimut dell'1,8%. Grazie a Filippo Diodovic, strategist di IG Market Italia, per questo commento iniziale sui mercati. Simone Spezia, Focus Economia, oggi in diretta dal Salone del Risparmio di Milano all'Università Bocconi, 349-238-6666 per i vostri sms. Ne abbiamo qualcuno in sospeso a proposito del credito che viene fornito alle imprese. Allora, ci scrive Massimo, per esempio: perché diamo sempre la colpa alle banche? Guardi Massimo, in questo caso abbiamo fatto l'esatto contrario, non abbiamo dato la colpa alle banche. Il punto è che in questo paese il finanziamento all'economia è stato troppo bancocentrico per troppi anni. Un finanziamento all'economia da parte delle banche che è stato circa l'85%, e parliamo più o meno degli anni pre-crisi, un livello paragonabile solamente a quello della Spagna, che però ha basato gran parte del suo boom sull'immobiliare, quindi per certi aspetti anche comprensibile. In altri paesi questa dipendenza dal sistema bancario è molto più bassa. Allora, cosa ci diceva l'esperta di Prometei a poco fa? Ci diceva: questo sistema è imploso a causa della recessione, a causa della crisi, e siamo in una fase di mezzo nella quale al nuovo sistema, un nuovo sistema di finanziamento dell'economia e delle imprese, non siamo ancora approdati. Dentro ci sono i mille motivi che anche mi state scrivendo via sms, sempre al 349-238-6666. Per esempio, la dimensione delle imprese italiane, a volte una scarsa struttura per gestire la finanza d'impresa, una sottocapitalizzazione di base che si è basata proprio anche su un appoggio eccessivo alle banche. E tutto questo evidentemente deve cambiare, perché quell'epoca è finita. I tempi di questo cambiamento, forse il problema sta esattamente là. Ad Andrea invece diciamo che, visto che lui mette in mezzo risparmio e spending review, mette insieme le due cose, dice: perché non parlate del fatto che la spending review non si fa? Lo facciamo quotidianamente, lo fa Sebastiano Barisoni quotidianamente, nessuno qua ha paura dei, cito Andrea, poteri forti, ammesso che in Italia esistano ancora e che siano mai esistiti. Veniamo all'audizione alla Camera dei Deputati del Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Prima qualcuno, dato che abbiamo detto che è raro sentirlo parlare in italiano, avete detto, qualcuno ha detto, ma va, è italiano, è vero, però da quando è presidente della BCE parla, lo sentiamo parlare quasi esclusivamente inglese, dunque c'è anche un piccolo evento in questo. Detto ciò, Draghi ha detto una serie di cose interessanti, a partire dalle prospettive di crescita che Draghi vede maggiormente favorevoli. Sentiamolo. In questo momento la situazione congiunturale e le prospettive a breve termine dell'area dell'euro sono più favorevoli che negli ultimi anni. Vari fattori contribuiscono a crescere la fiducia che la ripresa, finora debole e certamente disomogenea nell'area, acquisti forza e stabilità e che l'inflazione ritorni in modo durevole verso l'obiettivo stabilito dal mandato della BCE. Un valore cioè inferiore ma prossimo al 2%. Tre principali fattori confortano le aspettative di ripresa dell'attività economica: gli effetti positivi della caduta dei prezzi energetici, dei prodotti energetici, la intonazione espansiva della nostra politica monetaria, che certamente ha contribuito a ridurre la frammentazione del sistema finanziario e ad assicurare la trasmissione del basso costo del denaro alle famiglie e alle imprese. E le riforme strutturali, varate in diversi paesi dell'area, che sia pur con differenti velocità e intensità, cominciano a far sentire i loro effetti. Molte domande dei parlamentari che hanno assistito alla relazione di Draghi, alcune delle domande sono state in merito all'euro in se stesso, insomma, se l'euro abbia danneggiato l'Italia oppure no. Ebbene, proprio a proposito di crescita, Draghi ha detto: guardate che la crescita italiana era debole, si stava indebolendo già prima dell'ingresso nell'euro. In diversi paesi dell'area, e questo è un altro dato importante quando si va a discutere delle responsabilità che ha l'euro nella politica economica e nella situazione economica attuale, in vari paesi dell'area la crescita potenziale si è smorzata già prima dell'introduzione dell'euro. In Italia essa si è ridotta dal 2,5% registrato nei primi anni 90 all'1,5% nel 99. La diminuzione è continuata anche dopo. Il Fondo Monetario, per esempio, stima che essa, che la produttività, il tasso di crescita della produttività italiana sia zero oggi, o quasi zero. A proposito di tagli di spese, di spending review, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666, dice: che benefici porta la spending review? Tagliare la spesa pubblica in situazioni di crisi peggiora le cose ancora di più. Allora, su questo ci sono teorie economiche diverse oggettivamente. Detto ciò, se lei è contento, per esempio, di continuare a pagare i posti nei consigli di amministrazione delle municipalizzate per i politici trombati, faccia pure. Io, in tutta sincerità, questa roba vorrei non pagarla più, almeno non con i miei soldi e non con le mie tasse. Ora sul tema dell'euro, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, in audizione alla Camera: chi pensa all'addio all'euro si ricordi lo spread a 500. Non molto tempo fa, alla fine del 2011 e nel 2012, fronteggiavamo, e lo ricorderete senz'altro, un contesto molto meno favorevole di quello attuale. Le banche avevano appena avviato il necessario processo di riduzione dei debiti dopo la crisi finanziaria. Vivevamo una crisi di fiducia verso i debiti sovrani, la quale a sua volta dava luogo a una forte frammentazione dei sistemi finanziari dell'area lungo i confini nazionali. A ciò si aggiungevano i timori ingiustificati sulla reversibilità dell'euro, che sospingevano ulteriormente verso l'alto i premi a rischio nazionali. In Italia il rendimento del BTP decennale eccedeva il 7% alla fine del 2011, a fronte del 2% corrisposto sullo stesso titolo in Germania. Per inciso, questo spread di 5 punti, cioè 500 punti base, è esattamente lo spread che gli italiani, che noi abbiamo pagato per 15 anni in media prima di entrare nell'euro. Quindi chi vuol far paragoni tra le due situazioni ora ha un primo parametro di paragone. Dunque, abbiamo parlato fino a poco fa anche del finanziamento alle imprese italiane, ai soldi che fluiscono verso le imprese italiane, e dei problemi che derivano anche dalla struttura del sistema imprenditoriale italiano. Anche di questo ha parlato Draghi. In Italia c'è una concentrazione di troppe microimprese poco competitive. La dinamica delle nuove imprese che nascono e si espandono è stata rilevata in molti studi come un fattore centrale per la crescita della produttività, tra cui anche uno studio della Banca d'Italia. Questo processo è facilitato da un contesto regolatorio e normativo a livello nazionale favorevole, ma non è sempre così nell'area dell'euro. Questo è il motivo per cui sono così importanti le riforme volte a completare il mercato unico e a migliorare l'ambiente in cui operano le imprese. In alcuni paesi le imprese sono ostacolate dalla regolamentazione e da un trattamento fiscale penalizzante che scatta oltre certe soglie. In Italia vi è un'alta concentrazione di microimprese in cui la produttività è nettamente inferiore alla media, e a questo contribuisce anche una regolamentazione che incentiva queste imprese a rimanere piccole. I tempi delle procedure relative ai fallimenti incidono in misura assai significativa sulla velocità con cui vengono finanziati i piani di investimento delle imprese. Per completare una causa, sia nella fase di cognizione che in quella esecutiva, ci vogliono 5 anni in Italia, solo uno in Germania e in Spagna. Non vi dico cose nuove, credo, qui. L'Italia registra la giustizia civile più lenta in Europa. Recenti lavori suggeriscono che un dimezzamento della lunghezza dei procedimenti aumenterebbe la dimensione media delle imprese dall'8 al 12%. E poi c'è il tema che toccavamo poco fa, le difficoltà dei bilanci bancari, le cosiddette sofferenze, i crediti sostanzialmente inesigibili o molto difficilmente esigibili. La Banca Centrale Europea, dice Draghi, guarda con molto favore a iniziative per ridurre il peso delle partite deteriorate nei bilanci delle banche, in modo da liberare risorse. Come sapete, se ne sta parlando da più di qualche mese, ossia l'ipotesi di una cosiddetta bad bank, una banca cattiva dove mettere appunto le sofferenze delle banche, questi crediti difficilmente esigibili. Sentiamo Draghi. Ugualmente fondamentale però è l'altro aspetto che viene considerato meno importante, invece altrettanto importante quanto l'iniziativa OMT, è stata la decisione del Consiglio europeo del 2012, del giugno 2012, di dare il via all'unione bancaria. Pensate, da allora, soltanto nell'arco di circa 2 anni, oltre alla politica monetaria, è stato creato dal nulla un sistema di supervisione. Ed è stata fatta la prima grande operazione di scrutinio delle 120 banche europee più importanti. Questo ha avuto un effetto positivo perché ha indotto molte di queste banche ad anticipare gli aggiustamenti nei loro bilanci e gli aumenti di capitale che avrebbero dovuto fare dopo, quando i risultati di questo scrutinio fossero stati resi noti. Anche Draghi, in merito a argomenti più generali, come per esempio le regole di bilancio dell'Eurozona, dice, sono state disattese più volte, sottoponendo la fiducia reciproca a una forte tensione. Da dire che in tema di crescita, ha ricordato Draghi in realtà una stima della Banca d'Italia in merito all'impatto del cosiddetto quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli di Stato, potrebbe portare un punto percentuale di PIL entro il 2016 per l'Italia. Prima di chiudere, abbiamo deciso di dedicare uno spazio a in parte anche quello che è successo sui mercati oggi. Vi abbiamo raccontato che sono andate male le borse anche sulla scorta di quello che è successo per il prezzo del greggio. Il Brent, quello quotato a Londra, quello del Mare del Nord, con consegna a maggio un più 4,34% in questo momento a $58,9 al barile. WTI, quello quotato a New York, a un più 3,35% a 50,8. Che cosa pesa in questo momento? Quello che sta succedendo nello Yemen, che non è solo quella che potremmo definire una guerra per procura tra Iran e Arabia Saudita, perché da una parte ci sono i ribelli sciiti, dall'altra c'è appunto l'Arabia Saudita che sostiene l'attuale presidente al momento in fuga, ma c'è Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. C'è un punto di transito fondamentale per il greggio. Sì, certo, è un'area molto importante sotto tutti i punti di vista. Come hai detto tu, non è affatto secondario il fatto che si tema un coinvolgimento diretto da parte dell'Iran, uno scontro diretto con la rivale di sempre, l'Arabia Saudita, ma anche quello che sta succedendo adesso, anche questi bombardamenti, questo intervento, queste milizie sciite, gli Houthi che sono attive in Yemen, si teme che possano ostacolare in qualche modo i transiti di greggio. Lo Yemen si affaccia sul mare, su uno stretto che divide il Mar Rosso dal Golfo di Aden, e questo stretto, che si chiama Bab el-Mandab, alla lettera significa la porta delle lamentazioni funebri, non è chiara la leggenda alla base di questa denominazione. Ed attraverso questo stretto comunque passano quasi 4 milioni di barili al giorno di greggio, di petrolio greggio e di prodotti raffinati. Non è uno stretto cruciale come il famoso stretto di Hormuz o altri, però è uno stretto, un passaggio molto importante per le petroliere. Si teme che possa essere ostacolato il commercio. Lo Yemen di per sé non è comunque un paese importante dal punto di vista petrolifero, la sua produzione è già scesa molto perché il paese è destabilizzato da parecchi anni e la sua produzione attualmente è di circa 130.000 barili al giorno, più o meno quanti ne produce l'Italia, per cui il suo petrolio non preoccupa in modo particolare. Forse è una reazione emotiva un po' eccessiva anche quella di temere per i transiti di greggio in quello stretto, anche perché gli analisti assicurano che ci sono alternative, ci sono altri passaggi possibili, non ci sarebbe una carenza di petrolio derivante neanche dalla peggiore delle ipotesi di chiusura dello stretto. Quello che comunque è in dubbio è che la geopolitica, che era un po' uscita dai mercati petroliferi, non li orientava più da parecchi mesi, è tornata davvero in primo piano. E quindi sì, brevemente, quello che ci dice è che sostanzialmente è una sorta di reazione psicologica a quello che sta succedendo nell'area, non è esattamente una motivazione geografica fondamentale, per così dire. Beh, ci sono rischi forti, qualunque destabilizzazione in quell'area già fortemente destabilizzata, pensiamo all'Iraq, alla Siria, rappresenta un rischio per le forniture petrolifere, questo è ovvio, non è campato per aria aver paura che ci possa essere qualche ripercussione del genere. Diciamo che per ridimensionare un attimo la situazione bisogna pensare che non ci sono al momento le condizioni per temere davvero, per avere un'alta probabilità di un'interruzione dei transiti. Ecco, lo ridimensionerei in questi termini. Grazie a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore anche per questi chiarimenti. I ringraziamenti qua dal Salone del Risparmio vanno a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, Davide Cioce e Pietro Lacorte per la parte tecnica qua al Salone del Risparmio, e Filippo Aureggi invece negli studi nostri consueti di Milano. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Normalmente vi direi ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno, ma non ci sono io, c'è Enrico Pagliarini, dunque a lunedì. Radio 24, la passione si sente. Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. vi ha presentato Focus Economia.